I rifugiati a Bologna stanno vivendo una condizione particolarmente difficile in questi anni, che riguarda ovviamente anche i migranti, ma che per i rifugiati è particolarmente complicata, perché come sappiamo gli arrivi sono aumentati molto e seppure le soluzioni europee non si sono trovate, a livello amministrativo, a livello locale si trovano soluzioni arbitrarie che possono rendere difficile la vita dei rifugiati a Bologna, ma anche in altre città, perché questa situazione riguarda anche altre città della provincia e altre città come Milano e Roma. In particolare oggi gli eritrei sono qui insieme ad altri migranti rifugiati come i maliani, come gli ivoriani, perché negli ultimi anni gli è stata rifiutato l'asilo politico anche laddove i requisiti necessari all'ottenimento erano presenti, e gli è stata invece data la protezione sussidiaria o la protezione umanitaria, che oltre a garantire meno diritti e per un periodo di tempo più illimitato gli viene anche data con tutta una serie di ostacoli che loro incontrano nei vari uffici, primo tra tutti quello che non gli viene consegnato il titolo di viaggio, ovvero sostituto, diciamo, del passaporto. Quando loro fanno domanda di questo titolo di viaggio vengono invece rimandati all'ambasciata, che ovviamente, in particolare per gli eritrei che scappano da un regime dittatoriale, è ovviamente ostile nei loro confronti e quindi non ha interesse a fargli avere i documenti necessari, o se glieli consegna, glieli consegna a condizioni precise e onerose per loro, di controllo politico anche in Italia. Quindi noi siamo qui non solo per denunciare una situazione in cui la prefettura, la questura e l'ufficio asilo politico stanno effettivamente discriminando i rifugiati in questa città, ma anche per chiedere risposte, quindi chiedere un incontro in cui questa situazione venga risolta praticamente. Noi ovviamente saremo qui in piazza Nettuno dalle 17 anche il 1 marzo con i rifugiati e con i migranti, perché sappiamo che la questione, i problemi che i migranti stanno affrontando in questi anni sono una questione più ampia che riguarda tutta l'Europa, è una questione globale, e assieme a noi in quella stessa data altre città, non solo in Italia ma anche in Europa, faranno presidi, manifestazioni, azioni per far sentire che cosa significa stare veramente 24 ore senza migranti.